is a plot against my people. Paris can be for us. Nobody can be against us. If there is. Allora, benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio dedicata alle sonorità del continente africano, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. As I know your system is a block against my people. 06 49 17 50 il contatto telefonico. Nobody can be against us. If that is for my people, I don't know who can try. Who can try to be my enemy? My Africa wants to be free. E come al solito vi ricordo che Radio Onda Rossa non fa pubblicità e quindi il conto corrente postale su cui fare dei versamenti per sostenere questa radio è il 61 80 40 01 intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, Via De Volci 56, Roma. Mama Africa, Africa want to be free. Allora, per questo sabato faremo un percorso attraverso la musica del Mali. Del Mali cercheremo anche di parlare con gli aggiornamenti sulla situazione sul campo e qualche analisi. E molti artisti si stanno mobilitando per il Mali, per l'unità di questo paese, per la pace, e anche si levano voci contro l'intervento francese. Allora cominciamo con un artista che è del Mali ma vive in Francia, lui è Mokobé, dal suo album Mon Afrique, insieme a Salif Keita. Aux couleurs éclatantes. Le Mali, Mali, Mali, Mali. je vis à la malienne et toi c'est comment? Le bled c'est ma terre, c'est mon cœur, c'est ma vie, c'est mon sang. Donc comment? Abora, Mali, la Mokobé et Salif, au comment? On vient de Bamako, Sikasso, Ségou, Morty, Kidal, Tombouctou, Kai, Gao. On parle Bambara, Malinké, Fuel, Soraï, Bozo, Touareg, Togo, Saracoulé, s'il nous faut. Une fois de plus, on vient hisser le drapeau pour le Mali. Peuple et tous ces gays, personne n'ira te chercher, revendique ta place. Première, deuxième, troisième génération, tous issus de l'immigration. Si Dieu le veut, la conscience malienne et africaine va s'élever. Avancer, commencer, progresser ensemble, le point levé, coexister en parfaite entente. Près du cœur et loin des yeux, souvent le pays me ment. Mokobé, Sali. Le Mali, amène Mali Balefa. Allez, allez, Mali Bala. Sini, allez, Mali Bala. Mokobé insieme a Salif Keita in questo brano Mali dal suo album Mon Afrique, e i musicisti maliani si stanno mobilitando per la pace. Maliko è una canzone che è stata scritta da Fatoumata Diawara, la cantante maliana in questo momento diciamo così più famosa, e questa canzone è suonata insieme a Toumani Diabaté, a Madou et Maria, Viefarka Touré, che è il figlio di Ali Farka Touré, Oumou Sangaré e Tikeja Fakoli, che è ivoriano ma per anni è stato esiliato a Bamako, registrato allo studio Bogolan, un mitico studio appunto in cui ha registrato anche Salif Keita. E allora il brano si intitola Maliko. Dunya kanjata chara, Afriki kul manyoka, Mali borega fo mandani dange. Manyoka bani bankoye, manyoka bakuye, lalala. Kasila hamina joro la bisikera koye dumo do flim ngura ni ngera kaba koye abarata na matudo amege jugu sagoye mali tunye jamana mi jamana dumamba kabini kelena na mali dumbe toro la koye ai dunya na manja sira ndenumbe malo sinni Churupila, Malisa, mi cuore. Questi musicisti, questi famosissimi musicisti dicono appunto che l'unico percorso per uscire da questa situazione è l'intesa e parlano appunto dell'unità del popolo maliano e che la guerra non è mai stata una soluzione. Mali indivisible, la paix n'a pas de prix. La guerra non risparmia nessuno e loro non potevano immaginare una situazione del genere in Mali e poi parlano appunto della situazione della gente del nord che in questo momento soffre la fame, le donne sono picchiate e violentate. E allora un altro artista che ha dedicato un brano al Mali è sicuramente Awadi, che è un rapper senegalese. Nel suo album Presidente d'Afrique c'è un brano appunto in cui si sente la voce di Modibo Keita, che è stato il primo presidente dell'indipendenza del Mali, insieme a un gruppo hip hop Tata Pound. E allora il brano si chiama Una Plus Le Choix e lui appunto è Awadi. Nous sommes les uns et les autres, animés de la volonté ardente de faire l'unité africaine, il faut que nous prenions l'Afrique telle qu'elle est. Dolubaye kuni wolo kuni kanja jatabaye sanu de wolo sanu nyabule Dolubaye kuni wolo kuni kanja jatabaye sanu de wolo sanu nyawile dowere madukuba sikidi anye tolomba yaya tolomba tamana baila tamekumaife tolomba yaya tolomba dowere madukuba sikidi anye tolomba yaya tolomba Tamana baila tami yele ife tolomba yaya tolomba tota simbo kala tamande tota simbo ite kala tamande simbo meta talema. Aux prétentions territoriales, si nous ne voulons pas instaurer en Afrique ce que l'on pourrait appeler l'impérialisme noir. On n'a plus le choix, question de vie de mort. On n'a plus le choix, Modibo nous met d'accord. On n'a plus le choix de part et d'autre du continent. La même situation qu'on endure et tu hésites encore. On n'a plus le choix, on se tue à le répéter. On n'a plus le choix qu'on se donne enfin la main. On le dit, on le répète et on oublie le lendemain. L'impérialisme n'est pas le fait d'un pays, d'un continent ou d'un bloc. L'impérialisme, c'est cette manifestation de la volonté de domination d'un homme sur un homme, d'une société sur une société, d'un peuple sur un peuple, et de vouloir à tout prix lui imposer son mode de pensée, son mode de vie, son mode de développement politique et économique. Hey yo, atratrada, modibo keita tratrada. Coup d'état mal placé, modibo keita tratrada. Voilà, fidou, mais nous refaire la trombe ou béka ta n'y est fait. Anga fara n'y ronka, ne fait, voilà, ça fana béta n'y est fait. Hey yo, Africa, Africa, fara fina de angambolo di n'yokoma. Otma on yeta la wajamana tobe fara le n'yokonga. Anga herre bodela, anga kanye bodela, fara fina la fa bodela, ambeka koko. Pour le coup de nebe bifo, krenya badenya, modibo keita yufo. Ambeka trigo koke koko fo. Le kere ambi yiriwa, ka yiriwa ante toko. Le kere fumbe kesi gigouye, si ti bon yoro don. Singo meta kalema, awa modi bokeita, modi bokeita le. Singo meta kalema, awa modi bokeita, modi bokeita le. Di bade nyaye anga tria jara ambe jamu kele ambe togo kele ambe be jam sukle na kasra ma da shalla flaje kon na kati kasra nege tambolo mun kati gobo li kon na chole sur be ka monte 5 kilo water bu be be na le sal kon na fara ko sexu bala la fiesta continue la fiesta continue DJ Sando usko dos kalpani chau ambola DJ Sando usko dos kalpani chau ambola DJ Sando, usko dos kalpani chau, ambola. Blanc ce noir, le regard sur les pouvoirs. Arrivé à ce stade, oublieront l'air de voir. Militants et sympathisants resteront dans le noir. Hip hop nous amène vers le chemin de la claque. Vérité en tout genre, c'est ça qu'on veut pousser. Consacrer du temps pour avoir quelque chose de bien. Sampler et mixer pour être apprécié. Chanter et rapper pour avoir du talent. Passer à la radio, diffuser à la télé. Ce n'est pas le système que nous on veut viser. Mais passer et diffuser pour être apprécié. Ou passer et diffuser pour être critiqué. Voilà le système que nous on veut viser. De Bamako à Bogotá, tu l'as sauté, il faut toucher. De Conakry à Ouagadougou, il faut tenter. De Madrid à Paris, on va se faire lancer. Écoute le son mon gars, ça te rend fou. Le hip-hop malien évolue de jour en jour. Groupe Small accélère à 100 à l'heure. DJ Sando, usko dos kalpani chau, ambola. DJ Sando, usko dos kalpani chau, ambola. DJ Sando, usko dos kalpani chau, ambola. Mani chau na febra beka jerka ta nyefe. Shikana ikofle, frade koni kati. Nterke hekoji, sokro ni sema kata fo sokro la. Teri ya ni sidiya, ambeka jeko yiri wa. Mala tanga kuda hani denga dinti jela. Bobe karwa la neko afton mayora dila. Sabali mo keliko, eko ni vajo oko ni mani. Ni lati, basa bete to tu fena. Dori doni debe shibo nga che shefana. Ankana baku mama, lomi kuna kati orebe kuma dunwa lame. Na rapu duma lame, gana iyere lame. Amerike chopa banu kabane nyaka. DJ Sando, usko dos kalpani chau, ambola. DJ Sando, usko dos kalpani chau, ambola. DJ Sando, usko dos kalpani chau, ambola. DJ Sando, usko dos kalpani chau, ambola. DJ Sound, DJ Sound. E loro erano gli Smod, tre ragazzi di Bamako che sono stati scoperti da Manu Chao, e questo è il loro primo album, appunto Smod, e il brano che ci siamo ascoltati è Ambola. 17:03, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Ancora Mani Tikeja Fakoly, anche lui appunto ha vissuto, nonostante fosse della Costa d'Avorio in Mali, quando è stato costretto all'esilio, e questo brano è dedicato proprio a questo grande paese, e il brano è An-A-Ka-Willy, e lui è Tikeja Fakoly. Tanto Kidal venata tanto Gao venata tanto Kombutu venata tanto Hey Angawi na mawi Anyuwi na mawi Mali venata tanto Hey Angawi na mawi Anyuwi na mawi Mali venata tanto Cheba modelu tarami Samuru modelu bemini Sunjata modelu tarami Damozo modelu bemini Smauro modelu ngai wili Soni alibe modelu anga wili Hey Namawi, angawi, anyuwi, namawi, malibe natakanto Hey Angawi, namawi, anyuwi, namawi, malibe natakanto Ka fonde unyana ko kidal tumbe ambolo antena se ka fonde unyana ko tombo tumbe ambolo hey angawi na mawi mali benata kanto hey angawi na mawi na mawi angawi mali benata kanto amena mumfane unyana ko gawo tumbe ambolo Amena mune fande unyana Kutombu tutumbe ansaye Hey Angawi na mawi malibe nata kanto Hey Angawi na mawi namawi anyawi malibe nata kanto Angawi na mawi anyawi anyawi malibe nata kanto Hey Angawi na mawi angawi angawi malibe nata kanto Sony Alibert, décédé en 1492, le plus grand héros des légendes de l'Empire Songhai, brillant stratège, authentique génie militaire, il mena 32 guerres en 26 ans et les remporta toutes, Mali. Samori Touré, grand guerrier africain, synonyme de la résistance aux colonisateurs, Mali. Sundiata Keïta, le roi du Mandingue, grand conquérant rassembleur des peuples, fondateur de l'Empire du Mandingue, Mali. Babemba, opposant farouche à la colonisation, Mali. Aïe Wouli, Don Sera. E lui era Tikeja Fakoly in questo brano che in cui parlava anche delle grandi figure storiche del Mali, fra cui Sundiata Keïta, e proprio a questo imperatore, colui che ha creato l'impero del Mali tanti anni fa. Salif Keïta ha dedicato questo album che si intitola Mbemba, e volevo farvi ascoltare il brano Kamukié, e lui è Salif Keïta. Come on, kid, yeah, come on. Salif Keita insieme a Jelly Moussa Kouyaté Kante Manfila Aja Kouyaté Gianca Diabaté, insomma musica profondamente legata alla tradizione del Mali, ma anche come riferimenti appunto a Sundata Keita. 17:12 all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa. Ancora una cantante, una grandissima cantante maliana, le si chiama Oumou Sangaré, che si sta impegnando per la pace. Per la pace nel senso non astratto del termine, ma per il dialogo fra le comunità del nord del Mali, anche perché la ribellione Tuareg è una ribellione che da cui poi è iniziato tutto questo processo che poi ha portato all'invasione francese, una ribellione che si basa su un concetto etnico che invece nel nord del Mali non è mai stato vincente, anzi il nord del Mali è un luogo multietnico dove tante civiltà si sono incontrate e hanno convissuto pacificamente. Allora Oumou Sangaré, lei, il brano si chiama La Paix. la paix. La paix dans les guerres et partout en Afrique. Dans les guerres et partout en Afrique. Allora, un finale mozzafiato per questo brano di Abdoulaye Diabaté. Il brano è Balani e Abdoulaye Diabaté proviene dalla tradizione mande, ma diciamo si è anche distaccato e ha anche accolto alcune sonorità tipiche dei Senufo. Lui ha fatto costituito un gruppo che si chiamava Super Mande e ha suonato insieme a gente come Salif Keita, Moricante e Ousmane Kouyaté. Un brano appunto travolgente che poi in qualche maniera ci rimanda anche alla composizione multietnica del Mali. 17:22, questa è Radio Africa, voi siete sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Lui si chiama Moussa Diallo e il brano è Maninda. Maninda, don't give it that low, Maninda. Need to go where it at, Maninda. Don't give it that low, Maninda. Need to go where it at. Gonna nikele ya kili kele nda, jala nikele goro chen nikele taro sorry. Ayola mina, bismillah. Yala ni fila koro che ni fila taro sorondi ayola mina abisimila mune maninda dongili dala maninda nete do wera dade maninda dongili dala maninda nete do wera dade kono ni saba yukili saba da yala ni saba koro che ni saba taro sorondi ayola mina abisimila kono ni nani yukili nani da yala ni nani koro che ni nani taro sorondi ayola mina abisimila mune maninda dongili dala maninda nete do wera dade maninda dongili dala maninda nete do wera dade Ascolto appunto di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa, quello che ci siamo ascoltati è Moussa Diallo e adesso rimaniamo sempre in, in zona, diciamo così, con un musicista, un maestro della cora. Lui si chiama Toumani Diabaté, insieme alla sua Symmetric Orchestra, il brano Ya Fama. sais plus en quoi avoir foi. C'est le faux qui s'élève, le vrai qu'on enterre. On a changé de loi. Le peuple a la rage, on tue ses rêves. Ne sait plus en quoi avoir foi. S'il n'y a plus d'espoir, toujours la même chose. Soyez pas surpris si un jour ça explose. Regarde-moi, regarde mon Maliba. Tu fous quoi, mais pourquoi c'est comme ça. Chacun pour sa gueule technique, caméléon. Nouvelle religion, apporte des millions. Faible maillon, c'est la loi du talion. Les scrupules crèvent, oh c'est mignon. Nous avons trop attendu. J'en ai marre d'avoir la main tendue. C'est un SOS, SOS. On est en état d'urgence, c'est un SOS, SOS. Faut que ça change, c'est un SOS, SOS. On est en état d'urgence, c'est un SOS, SOS. Faut que ça change. Y'a pas ma mouille bouquet d'année là que nous. Maliko et Mbila m'a baissé qu'un chou là que nous. Kabio sanja in sanji majigi shikela wira yuka sharida bafilita adai nekoro jamana bikumala kose naika kekanya doma boji samala saele mashu nye duku kutariye hiba kosa imbebe songa kima here mune ala he jeti magula malite makele tae obebe nikuna mima na biro nisoro maliba ingona na figi dobe na adenga fitlo inaluma ifenso tumadeni nima misoro bifoki saite kefoye. C'est un SOS, SOS. On est en état d'urgence, c'est un SOS, SOS. Faut que ça change, c'est un SOS, SOS. On est en état d'urgence, c'est un SOS, SOS. Faut que ça change. Étranger, kidnappé, non. Pour manipuler, non, non, plus jamais ça. On a tous besoin de rêver. Mon peuple est affamé. On a tous besoin d'espérer. Mon peuple crie. C'est un SOS, SOS. On est en état d'urgence. C'est un SOS, SOS. Faut que ça change. C'est un SOS, SOS. On est en état d'urgence. C'est un SOS. E allora questo brano è un brano appunto, era, c'era un problema con il microfono, SOS Mali ed è di Issiaka Amkullel ed è un brano appunto che parla della situazione umanitaria nel nord del Mali. E siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sono le 17.35, la seconda parte della nostra trasmissione in cui appunto cercheremo di fare qualche approfondimento rispetto a quello che sta accadendo in Mali. Un'intervista sul sito di Slate Afrique a Pierre Cherrouot, che è un giornalista esperto di cose africano, un'intervista piuttosto interessante perché appunto mette a fuoco alcuni aspetti di questa vicenda maliana. Il giornalista comincia a parlare della questione della strategia dell'MNLA, che è il Movimento Nazionale di Liberazione dell'Azawad, che è il movimento dei Tuareg che ha dato inizio a questa ribellione nel gennaio del 2012, movimento dell'Azawad che è stato scalzato dai jihadisti. E il movimento appunto dell'Azawad è un movimento indipendentista, laico, che sta conoscendo per l'appunto un declino da qualche settimana e si è fatto praticamente cacciare da Gao, che è una delle città principali del nord del Mali, dal movimento per l'unicità della jihad in Africa dell'Ovest, il Mujahou, e poi anche da altre città come Menaka, perché dove da sempre è stato un gruppo efficace nel traffico, fra le altre cose anche di cocaina, di esseri umani, di ostaggi. Diciamo che l'MLNA in qualche modo non era già presente sul territorio e stava all'interno di quelle di quei traffici, di quei corridoi dove attraverso i quali passavano, diciamo così, i traffici più impensabili, anche perché appunto il nord del Mali c'è, cioè il deserto, il Sahara o il Sahara come dicono loro, che è comunque una sorta di mare appunto attraversato da questi traffici. E adesso l'MNLA cerca di proporre i propri servizi all'esercito francese, visto che loro sono dei combattenti agguerriti e buon conoscitori del terreno, precisando però che rifiutano ogni collaborazione con l'esercito maliano, a cui non è consentito l'ingresso nell'Azawad. Ma questo l'Azawad è un termine che rileva una costruzione politica dei ribelli che non rinvia alcun fondamento geografico, tantomeno storico. La Swad geografico concerne uno spazio situato fra Timbuktu e Arwana, e che in genere è frequentato da pastori nomadi, e all'interno di questo spazio c'è una, diciamo, un deficit di presenza statale, una legittimità sociale, politica e militare che è difficile da ricostruire. Quindi diciamo è una sorta di non luogo, meglio un luogo dove che viene attraversato dai traffici più svariati. E gli si chiede a questo giornalista se le truppe francesi potranno riconquistare rapidamente il nord. Tutto dipende, gli risponde, da che cosa si intende per il nord, perché se si integra la parte sahariana, quella delle montagne, delle grotte, delle dune, dei canyon, lì sarà un po' difficile riconquistarlo, soprattutto quello che stanno cercando di evitare, per esempio i soldati del Niger e del Chad, che stanno cercando di evitare che appunto i jihadisti si possano rifugiare in questa zona che è al confine con l'Algeria, dove si possono facilmente nascondere e portare avanti operazioni di guerriglia. Probabilmente l'esercito francese riuscirà a conquistare le città del nord, Timbuktu, Gao e Kidal, ma la parte, diciamo così, sahariana è tutta un altro paio di maniche. E il discorso poi cade su quello che sta accadendo a Bamako, cioè il governo del capitano Sanogo, perché nella realtà dei fatti le truppe francesi sono state chiamate all'intervento dalla richiesta ufficiale del presidente ad interim Diouf Traoré, che di fatto però è il presidente di uno stato che è governato dai militari, in particolare dal capitano Sanogo, che hanno appunto fatto un colpo di stato. Quindi diciamo la legittimità democratica, fra virgolette, di questo presidente che ha richiesto l'intervento, insomma, è piuttosto discutibile. Ma la cosa più interessante viene nel seguito dell'intervista, in cui appunto si chiede se la Francia potrà rimanere da sola in prima linea per molto tempo e non rischia questa operazione di apparire come un'operazione tipicamente neocoloniale. Ma questo risponde questo giornalista Pierre Cherot, questo è già un dato di fatto, perché già la stampa algerina accusa di neocolonialismo la Francia, altri gruppi della società civile di imperialismo, e d'altra parte nessuno Stato interviene in maniera disinteressata, tutti gli Stati difendono gli interessi politici ed economici. Sembra che dica una banalità, ma forse considerando come stanno raccontando i mezzi di informazione questo intervento, forse è meglio ribadirlo. Il Mali ha moltissime risorse nel sottosuolo, petrolio e gas nel sito di Taoudenni, a cavallo tra la Mauritania, il Mali e l'Algeria, l'uranio nella DAG e l'oro. Il Mali è il terzo produttore di oro del continente africano, di manganese e di fosfato, e naturalmente è difficile che essere insensibili a queste ricchezze. D'altra parte non solamente la Francia ma anche altre potenze emergenti, soprattutto in Africa, come per esempio la Cina, hanno guardato a queste, diciamo, a queste risorse. Infine, il Niger è vicino, e proprio in Niger i francesi hanno degli interessi molto sostanziosi, perché ci sono, c'è appunto l'uranio. Areva è una multinazionale francese, la Francia ha molto bisogno di uranio, soprattutto per far funzionare il suo nucleare. Du wesh, si tu veux pas que je capte ta se fasse dans l'esprit, moi d'a déjà. It's the Weja, it's the Weja, it's the Weja. Dans la quitte de chocolat. It's the Weja, it's the Weja, it's the Weja. Sache que tu ne rêves pas. It's the Weja, it's the Weja, it's the Weja. Dans la quitte de chocolat. It's the Weja, it's the Weja, it's the Weja. Sache que tu ne rêves pas. It's the Weja, it's the Weja, it's the Weja. Dans la quitte de chocolat. It's the Weja, it's the Weja, it's the Weja. Sache que tu ne rêves pas. It's the wager, it's the wager, it's the wager. Dans la quitte de chocolat. It's the wager, it's the wager, it's the wager. C'est ce que tu ne rêves pas, fichon. E continua l'intervista a proposito della possibilità che all'intervento militare di far uscire il Mali da questo, da questa impasse. L'intervento militare potrà modificare dei rapporti di forza militare, ma sicuramente non risolverà i problemi politici, anzi molto probabilmente ne porrà altri in un tempo, un lasso di tempo non molto breve. E soprattutto poi bisogna vedere anche se una volta conquistate le città del nord si potranno fare le elezioni, ma la cosa è molto complessa perché innanzitutto i rifugiati sono fra i 200.000 e i 450.000, e quindi immaginare delle elezioni insomma in una situazione del genere è piuttosto improbabile. Ma anche questa concezione delle elezioni fatte, diciamo così, senza democrazia sostanziale rimanda anche all'idea di questa democrazia che era il Mali, considerato appunto un paese democratico, ma democratico solamente formalmente, considerando anche le condizioni sociali della popolazione. Il Mali è uno dei paesi più poveri del mondo, e quindi sicuramente il discorso, un discorso successivo a quello dell'invasione, potrà essere considerato solamente in un contesto di vera riconquista della democrazia nel paese. Na votera mali babetanye, na votera jamana bebara. Samajike tamo samayele tam konkoyala samahabalasan. Vote mon pote, je sais que tu en es capable. Geste légitime aussi simple que capital. Apporte nationale ou communale, le vote signal. Aimer le monde dépendant du désigné vis-à-vis. Tu désignes à tu saisis cette faculté de nommer X personne, et qui entraîne la compétence de la révoquer son. Tu mandates ou tu mets fin au mandat boy. Voilà en somme, c'est qu'en globe, vote mania. Et Tolomada, écoute ma familia, Abamada. Weja Denja, dans la place, high. Face à face, efficace pour la masse, high. Je représente AIFES, Nefwit, yo. I think you got your mind made up. Choose one. C'est recette, check it out. Donc vote mon pote. Voici les élections. Vas-y, affouille. Estime ton opinion. Vote mon pote. Voici les élections. Vas-y, affouille. Estime ton opinion. On a voté Jamana Catania. Allora 17.46, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Vi ricordo anche il contatto telefonico che è 06 49 17 50, questa è Radio Africa. Stavamo facendo un approfondimento sulla questione del Mali, leggendo alcuni brani di un'intervista a Pierre Cherot, che è un autorevole giornalista esperto di cose africane. E vediamo un po' com'è la situazione sul terreno. E in pratica i soldati francesi e quelli maliani hanno preso il controllo dell'aeroporto di Gao, che è uno dei principali bastioni degli islamisti nel nord del Mali, anche se poi uno di questi gruppi annuncia di voler negoziare la liberazione degli ostaggi francesi, in particolare il gruppo del Mujahou. E il controllo dell'aeroporto di Gao è piuttosto importante per quanto riguarda il discorso della conquista del nord, e parallelamente una colonna di soldati blindati ciadiani che stazionava in Niger ha lasciato Niamey, la capitale, per dirigersi verso la frontiera con il Mali. E si sta prefigurando quindi all'interno di questa operazione, che si chiama Operazione Serval, l'intervento dell'esercito della CEDEAO e in particolare dell'esercito del Chad. L'esercito del Chad è uno degli eserciti più organizzati dell'Africa, e poi sarà presente in Chad con circa 2000 uomini, quindi diciamo una presenza piuttosto consistente. E il presidente del Chad, Idriss Déby, ha sicuramente, diciamo così, qualche debito con la Francia, considerando appunto che poi lui fu salvato proprio dai militari francesi quando subì un colpo di Stato che lo stava per rovesciare. Déby e soprattutto il Chad è stato teatro di un confronto militare fra i libici e i francesi per molto tempo. Da una parte c'era appunto Idriss Déby, dall'altro Hissène Habré, che era uno dei principali signori della guerra del paese, e loro sono entrati insieme a N'Djamena, la capitale, quando conquistarono il potere contro Ouégani, successivamente si divisero, e appunto e cominciò questa nuova guerra intestina nel Chad. E Déby fu sostenuto militarmente dai francesi. Quindi evidentemente si deve anche in qualche modo a sdebitare, e la presenza dei militari ciadiani è una presenza importante dal punto di vista militare, perché i soldati ciadiani sono abituati a combattere nel deserto, conoscono il terreno e quindi diciamo sono più adatti ai soldati per esempio nigeriani, che provengono da un contesto completamente diverso anche ambientale. E poi naturalmente le conseguenze dal punto di vista geopolitico dell'intervento del Chad si faranno sentire, perché questo paese acquisterà un peso specifico nell'area e sicuramente potrà fare da contraltare anche all'Algeria, che condivide con il Mali ben 1400 chilometri di confine. Un altro aspetto di questa guerra sempre più internazionalizzata è anche il fatto che intervengono i soldati nigeriani che già hanno a che fare con Boko Haram, che è l'organizzazione integralista che sta mettendo a dura prova la resistenza dell'esercito nigeriano e del governo di Goodluck, ma sicuramente i soldati nigeriani comunque avranno, sono soldati innanzitutto anglofoni, e questi già li differenzia dagli abitanti del Mali, e poi sono famosi, diciamo così, per la loro violenza nei confronti della popolazione civile. Questo aspetto della violenza nei confronti della popolazione civile comunque già sta emergendo, perché sono già i soldati maliani che si sono macchiati di crimini, di violazioni dei diritti umani, ci sono state delle esecuzioni sommarie. Testimoni hanno visto gettare cadaveri di persone che venivano definite Tuareg in pozzi, insomma comincia una sorta di abbozzo di pulizia etnica nei confronti di coloro che vengono definiti bianchi, e cioè appunto i Tuareg, che sono poi definiti responsabili di quello che è successo. Quindi è una situazione che può sfuggire di mano, e di questo se ne è reso conto anche lo stesso ministro della difesa francese, che ha chiesto alle forze maliane di rispettare la popolazione del nord. Quindi la guerra si prospetta ancora una volta come una non soluzione rispetto a quello che sta succedendo in Mali. Intanto appunto sul terreno ormai le forze francesi stanno effettivamente conquistando terreno, stanno andando verso Gao e Timbuktu. Queste città sono state bombardate sistematicamente dai Rafale, che sarebbero i caccia francesi, però delle conseguenze di questi bombardamenti si sa ben poco. La popolazione tendenzialmente fugge. Timbuktu, a quanto sembra dalle testimonianze, è una città morta, non c'è l'acqua, non c'è la corrente elettrica e sicuramente c'è un problema fortissimo anche di mancanza di cibo e di sostentamento. Quindi insomma la popolazione civile sicuramente si trova in questo momento a vivere una condizione estremamente difficile. Su questi cosiddetti effetti collaterali non si sa nulla, come d'altra parte non arrivano né immagini né notizie sostanziose su quello che sta avvenendo sul terreno, sui combattimenti. Si sono viste nella TV francese insomma dei pick up dei jihadisti bruciati, ma insomma niente di più. C'è stata una polemica per un soldato francese che aveva indossato un fazzoletto con un teschio e quindi insomma c'è stata una polemica un po' così, diciamo, etica all'acqua di rose sul fatto appunto di presentarsi con quell'aspetto aggressivo, ma d'altra parte lì appunto c'è una guerra, quindi è stata una polemica assolutamente priva di senso. Sul fronte interno finalmente il Front de Gauche, Marechon, è riuscito a dire che questa guerra è una guerra neocoloniale. Non ci ha messo un po' di tempo, però insomma cominciano le prime discrepanze. Poi ci stanno alcuni settori politici che si lamentano del fatto che la guerra sia iniziata senza la consultazione del Parlamento, ma in realtà di fatti l'intervento francese ha anche in qualche maniera violato la risoluzione 2085 dell'ONU, che prevedeva, prima dell'intervento della CEDEAO appoggiato dal punto di vista logistico da altri paesi, che potevano essere anche la Francia, una trattativa con le forze in campo nel tentativo appunto di in qualche maniera ricostituire un dialogo, di riprendere le maglie di un dialogo. Ma da una parte l'offensiva jihadista, dall'altra la decisione precipitosa dei francesi, e forse entrambe, diciamo così, collimavano per quanto riguarda certi interessi, hanno accelerato appunto l'intervento francese, che è diventato un intervento in solitaria. Devant les bruits, rangers aux pieds, matraque à la main, ça rosse les élèves comme des chiens. Filles, garçons, il n'est pas une personne, un conseil, je te donne travail, ton 800 mètres, et cherche à battre au corps Ben Johnson. Les forces de l'ordre foutent le désordre, dépassent les bornes, les choses s'aggravent, se cornent. Miséricorde, putain, pour le dialogue, beaucoup tombent, les moins chanceux prennent le chemin de la mort. Chacun se cherche, prêche à la récite la fatia. Faut surtout pas se crèche à l'hosto au commissariat. Les profs sont corrompus, ne veulent plus, ne savent plus, inspirent les jeunes, démotivants, l'école ne voit plus aucun avenir. Ça préfère chômer les cours pour aller dealer, draguer. Check le premier, deuxième, troisième verre de thé. Quatrième fois que je fais mon bac, j'ai 24 ans. Fuck de mien, je deviens commerçant. Le school, c'est trop décevant. Y'a pas de pro, des amateurs que des zéros. Peu d'intello, fil bête pour faute de. Et alors, l'ascolto degli 87,9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, 17,56, questa è Radio Africa. E allora ancora un po' di musica del Mali. Quelli che abbiamo ascoltato in sottofondo sono i Rage, un gruppo hip hop di Bamako, che fa una musica molto, molto combattiva, con testi insomma decisamente di critica sociale. Invece quelli che vi voglio far ascoltare vengono sempre da Bamako, si chiamano i Tata Pound. Il brano in questione è Mupayesa, significa il mio paese, una SRL, che praticamente parla della svendita del Mali. I Tata Pound sono stati un gruppo che ha avuto anche un certo rilievo, perché furono addirittura Furono addirittura invitati dal Presidente della Repubblica, quello precedente, perché i loro testi, le loro liriche avevano sollecitato delle critiche fortissime al sistema democratico del Mali. Il loro ultimo album si chiama Revolution, e quindi ve li faccio ascoltare. Loro sono i Tata Pound in questo Mali, Mon Pays. Attention. Laissez-nous faire, d'ailleurs. Timbre, la haine, la colère, la violence. La colère, la violence. La violence. Parce que tu m'en parles d'une voix fort dégagée, vend mon rap engagé. Viens tout dégager, viens tout déranger. Danger, danger. Danse, danse. Viens tout saccager, donne tout ce que j'ai. Ma joue, ma clique, c'est tout ce que j'ai. Mon esprit, mes écrits, c'est tout ce que j'ai. Parce que tu m'en parles d'une voix fort dégagée, vend mon rap engagé. Viens tout dégager, viens tout déranger. Danger, danger. Danse, danse. Viens tout saccager, donne tout ce que j'ai. Ma joue, ma clique, c'est tout ce que j'ai. Mon esprit, mes écrits, c'est tout ce que j'ai. J'écris et je crie le poids de ma haine. J'élève et je lève le poids de mes peines. Je nargue et nargue. Mes histoires d'écume. Mes histoires de cul, mes histoires de vainqueur, mes histoires de vaincu. Ce qui fait mon vécu chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie. J'apprends et je prends le respect de mes hommes, le respect à mes hommes. J'ai toute la somme. Amour ou haine, le doute m'assomme. Au mec, j'assume le respect du macadam. C'est fait moi je tombe. Pouah, pouah, j'suis pas un mécadam. Le yin et le yang, c'est la gamme de mon âme. La gamme de ton âme, la gamme de mon âme, la gamme de ton âme. Ni wax rek ni ngay déggé, ni ngay déggé ak ni ngoy jëlé, ni ngoy jëlé ak ni ngoy jëmalé, fi ngoy jëmalé ak fi muy téré. Mëno nand fi ñi waxé, tolaw ñu fi ñi gissé, tuti nga tuti ñu jugé, li ñu dund xamoon nu mu tété, ni mu tété wala nu mu toggé, ni mu toggé wala nu mu taxawé wala ni ko toggé, ni ko soré ni ko nirugé, ni ko safalé ni ko safalé, yakal xol ni mu foñé, sunu life non la xamé, sunu life non la xamé. Parce que tu m'en parles, tu me vois les forts dégagés, mon rap engagé, viens tout dégager, viens tout déranger. Danger, danger. Danse, danse. Viens tout saccager, donne tout ce que j'ai. Ma joue, ma clique, c'est tout ce que j'ai. Mon esprit, mes écrits, c'est tout ce que j'ai. Allora, beh, capita di sbagliare pezzo. Quello che vi stavate ascoltando era Danger dei VABMG 44, un gruppo hip hop senegalese, però in realtà dei fatti non era quello che vi volevo far ascoltare, bensì questo Mon Pays S.A. Tellement énergie du mal privatisée, de l'estage fini, ils veulent nous tromper. Les niveaux de vie vont baisser, le prix du courant va grimper. GSM inaccessible, communication coupée. Colonisation mentale, Sadio a été vendu. L'État dort sur l'or, maintenant on a tout compris. Le pays va mal, pourtant vous traînez à Mercedes et à Lexus. Les millions bloqués dans les banques suisses. Le pays vendu rangé par des carnivores. Pitié, mon vieux, ils nous ont dévalisés. Pitié, mon vieux, ils nous ont dévalisés. Les biens publics sont vendus comme des biens privés, hey. La totalité de ces pierres est détournée, volée. L'Afrique restera sous-développée. Les salaires sont minables, pourtant tout est privatisé. On s'en sortira jamais avec nos dirigeants dirigés. Société nationale, vendue aux multinationales. Mon pays S.A. Mon pays S.A. Société nationale, vendue aux multinationales. Mon pays S.A. Mon pays S.A. Amna Djamana Sonra, Olo Bepede, Natouba, Oumba. Mon pays S.A. Mon pays S.A. Amna Djamana Sonra, Olo Bepede, Natouba, Oumba. Mon pays S.A. Mon pays S.A. Tabaco, mon téléphone privatisé. Résultat, les factures ne cessent de tomber. Si tu fais pas le 30 du mois, ta ligne est bouchée. Bouchée, sans préavis, ta ligne est bouclée. Les factures de plus en plus chères, nos morts sentiments. Le nouveau maître des lieux en a décidé, ainsi pas de sentiments. Ma cigarette vendue à Kadhafi. Résultat, prolifération de la contrebande. Malgré le local désormais, trop cher ici. Je préfère l'autre, c'est moins cher. Vive la contrebande. Ma nation privatisée, achetée, tout est pour Babylone. Nos dirigeants kidnappés, hypothéqués, tout se décide à Babylone. Ajustement structurel, mentalisation formelle. Casse nos altarismes, nos mamelles. Le monde a changé de maître, non de contenu. Toujours c'est la même barbarie. Économie esclavagiste, féodale, capitalisme, économie. Société nationale, vendue aux multinationales. Mon pays S.A. Mon pays S.A. Société nationale, vendue aux multinationales. Mon pays S.A. Mon pays S.A. Arna Djamana Sonra, Bolo Befe, La Touba, Ouma. Mon pays S.A. Mon pays S.A. Arna Djamana Sonra, Bolo Befe, La Touba, Ouma. Mon pays S.A. Mon pays S.A. L'Occident rejette la capacité contributive de l'Afrique dans le partage. Mon préconçoit cette inégalité économique en jouant les rôles des petits actionnaires. L'Occident, les PDG, les plus grands actionnaires, a extraverti l'économie du pays à son profit et crée une couche de marionnettes dans mon pays pour la gérer. Rompre avec la cause du peuple, nos dirigeants ont rompu avec la cause du peuple. Pire que les missionnaires, les colonisateurs, pour avoir voulu la paupérisation de leurs frères. Mon hôtel Sofitel privatisé, mon eau privatisée, mon courant privatisé. Le pire, c'est que leur prix n'arrête pas de grimper. Mon pays privatisé, mon avenir hypothéqué, mon peuple fatigué. Recolonisation réussie, mon pays transformé en société anonyme par l'île. Société nationale, vendue aux multinationales. Mon pays SA, mon pays SA. Société nationale, vendue aux multinationales. Mon pays SA, mon pays SA. Amna Djamana Sorona Bolo Ben Fédéla Touba Ouma. Mon pays SA, mon pays SA. Amna Djamana Sorona Bolo Ben Fédéla Touba Ouma. Mon pays SA, mon pays SA. Société nationale, vendue aux multinationales. Mon pays SA, mon pays SA. Société nationale, vendue aux multinationales. Mon pays SA. Mopei S.A., loro sono i Tata Pound, 18.03, è arrivato DJ Lenin, quindi Radio Africa fra un po' vi lascerà il mixer al suo jazz. Trasmissione per questo sabato finisce qua, insomma la voce in qualche maniera ha retto, anche se poi magari non si sarà sentito benissimo. Vi voglio lasciare in compagnia di un ultimo brano, lui si chiama Gidi Majali ed è un musicista del Kenya. Il brano si chiama Atoti, anche lui fa parte della scena hip hop keniana che è molto estremamente vivace. Poi magari insomma ne parleremo in maniera approfondita, gli dedicheremo anche una trasmissione. E allora Radio Africa se ne va per questo sabato, rimanete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Hey, hey. Makoro Atoti part 2. Lady Lando Nyakumi paka pinje mangima Gidi gidi maji maji rodonjoko. Hey, hey. Atoti part 2. Ma Atoti part 2. Chaco. Kelo kama, kelo kama, toti keto kama, keto kama, toti wito kama, toti, a toti. Kelo kama, kelo kama, toti keto kama, keto kama, toti wito kama, toti, a toti. Nyako mian vile tunataka raka raka pinyo malo yengoga. Tatoti yengoga yengoga mose binyo. Tatoti kelo ga mose kelo. Tatoti keto ga mose kelo. That when I go do it my way, that don't hang on my team. I thought it's too muri. So I can hear it, hear it. Hey. So you can handle bende duari. Hey. I can hear na bende duari. Hey. Na thought it's in the kilari. Again my meal maratoti. Nango. Atoti. Me, or you pack me, A toti come, a toti go, a toti back, a toti front, a toti this way, a toti that way, a toti panda, a toti suka, a toti come, a toti go, a toti front, a toti back, a toti this way, a toti that way, a toti panda, a toti suka, a toti. Radio Onda Rossa 87.9 inizia a Salpinas per la puntata odierna 18.09, questa è Radio Onda Rossa 87.9 la frequenza.